Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Appuntamento con la nostra rubrica settimanale Dal mondo della scuola e con il grande appuntamento che ormai si avvicina a grandi passi di sabato 10 maggio a Roma in piazza San Pietro. Bentrovato Don Edmondo Lanciarotta. Bentrovati a tutti voi e grazie dell'accoglienza. Corsa, ovviamente gli ultimi giorni sono frenetici per gli ultimi dettagli. Come sta andando? Quante sono le iscrizioni? Cosa ci puoi dire della partecipazione a questo grande appuntamento di cui parliamo da settembre? Sì, la preparazione dal punto di vista formativo, spirituale e culturale prosegue in termini così di incontri, di informazione, di sensibilizzazione, cercando di coinvolgere più possibile i protagonisti, gli studenti, i genitori, i docenti, i dirigenti scolastici e poi le scuole di ogni ordine e grado, sia quelle statali, sia quelle paritarie, sia quelle diciamo degli centri di formazione professionale, ecco i licei. Quindi c'è un movimento che va oltre anche le aspettative per quanto riguarda il coinvolgimento. Abbiamo anche così momenti di incontro nel tentativo di rivitalizzare il mondo della scuola e di intercettare le principali urgenze di quella che viene chiamata l'emergenza educativa per la costruzione di quelle che noi tante volte chiamiamo anche le alleanze educative. Ecco, su questo aspetto qui la preparazione è anche buona. Dal punto di vista della presenza e delle iscrizioni, ecco, del centro Roma, ecco, ad oggi ha raccolto 120.000 iscrizioni provenienti da tutta Italia. Ecco, quindi vuol dire più di Piazza San Pietro, tanto per capirci. Sì, più di Piazza San Pietro, e questo è un segno anche positivo. Dal Triveneto, dai dati che noi abbiamo, un 10.000 presenze, ecco, sia quelle che sono organizzate attraverso gli uffici diocesani, sia quelle che prevedono due giornate, ecco, qualcuno anche tre giornate, e sia quelli che invece proprio fanno una giornata, partono il mattino di sabato e rientrano alla sera dello stesso giorno. Siamo stati un po' penalizzati noi del Triveneto per certi aspetti, perché pensavamo anche di utilizzare anche il treno per quelli della giornata, ma visto l'orario dell'incontro con il Papa, che è nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, il Papa dovrebbe arrivare alle 4:15, dovrebbe girare per tutta la piazza per 3/4 d'ora e poi dalle 5 alle 6:30 l'incontro, quindi prendere il treno alle 7 di sera, 7:30 era impossibile, quindi molti hanno dovuto un po' non utilizzare questo strumento, però siamo soddisfatti per il momento della partecipazione. Sono numeri importanti, certo non paragonabili a quelli della canonizzazione, però sono comunque significativi, mi pare. La canonizzazione prevede, cioè, tutto un mondo, abbiamo visto, ecco, variegato a livello mondiale. Questo è un evento nazionale, è già straordinario questo che la Chiesa italiana abbia posto l'attenzione alla scuola e tutta la scuola, ecco, vuole essere, desidera essere, speriamo che lo sia, abbracciata da Papa Francesco per porre sia alla comunità cristiana, ma specialmente alla società e alla politica, questo bene è un bene di tutti, la scuola, in maniera tale che possa svolgere quelle finalità e quegli obiettivi specifici. Ecco, lo ricordava qualche settimana fa anche il neosegretario della CEMO, signor Galantino, che sbaglia fortemente chi pensa che questo sia uno spot per la scuola cattolica. Ecco, purtroppo tanti sono i pregiudizi, uno è anche questo, che la Chiesa, e per la Chiesa in questo momento parliamo del Magistero, ecco, nel più alto vertice del Magistero, appunto, la CEI, la Conferenza Episcopale, e anche il Papa, quando parla di scuola, parla delle sue scuole. No, non è sue scuole. La Chiesa parla della scuola come scuola sua, cioè come scuola della comunità, in quanto anche essa fa parte della comunità. E quindi lo slogan che tante volte anche da questi microfoni abbiamo detto, scuola della comunità, scuola comunità educativa e scuola nella comunità, ecco, è un'occasione questa affinché tutta la scuola e tutto il sistema educativo, di istruzione e di formazione, sia quello paritario, sia quello statale, che è sempre un sistema pubblico, che costituisce la scuola, questo è un bene di tutti e questo vuole, desideriamo sia capito e compreso dall'opinione pubblica. Quindi è un momento di tutta la scuola. E crediamo che il Papa sarà ben capace di orientare, come ha spesso fatto. L'ha fatto con la canonizzazione, insomma, è riuscito, dicendo e non dicendo, ma a far capire qual è il vero senso della canonizzazione dei papi, quindi crediamo che possa farlo anche con la scuola. Ci auguriamo veramente che questo possa accadere per il bene appunto delle giovani generazioni, delle famiglie, di tutti noi. Tra poco ancora insieme per snocciolare altri temi in vista di questo grande incontro di sabato 10 maggio. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Dal mondo della scuola sulle frequenze di Blu Radio Veneto, un anno particolare che ci ha visto spesso e volentieri parlare dell'appuntamento del prossimo 10 maggio, la Chiesa per la Scuola con Papa Francesco in Piazza San Pietro, 120.000 iscritti ufficiali, ma immaginiamo poi che ne saranno di più, insomma, ci sono anche i liberi battitori. Quelli dell'ultimo momento, i quali arrivando per ultimi, non iscrivendosi, possono anche prendere i posti prima degli altri che sono iscritti. Questo difetto di organizzazione. Speriamo. Comunque, insomma, Roma sappiamo che è accogliente, quindi ci sarà anche la possibilità di seguire anche a distanza. In vista di questo appuntamento, la CEIA aveva predisposto un piccolo vocabolario, ne avevamo parlato già in altre occasioni, ma ricordiamo, Don Edmondo, alcune parole che, insomma, hanno dietro significati, progettualità. Ecco, alcune parole fondamentali sulle quali, ecco, si è concentrata anche la preparazione di cui prima si diceva e che dovrebbe anche essere un momento di prosieguo, ecco, per orientare la riflessione, per orientare il discernimento pastorale, anche per orientare l'azione pastorale e per orientare anche affinché la scuola sia scuola, alcune parole sono state offerte: la parola educazione, la parola alleanza educativa, la parola comunità educativa, la parola Europa, la parola parità, la parola sussidiarietà. Ecco, queste sono alcune parole fondamentali. Prendiamo per esempio Europa. Ecco, noi non possiamo assolutamente pensare a una scuola, a un sistema educativo scolastico senza confrontarci con i sistemi educativi scolastici dell'Europa. Abbiamo un euro che tiene unita l'Europa, però ancora non abbiamo un sistema educativo, però abbiamo dei riferimenti. Allora è tutto da costruire, ecco, perché il cittadino italiano è un cittadino prettamente europeo, e quindi basti vedere anche il numero considerevole di presenze di studenti stranieri e di studenti che provengono anche da culture diverse presenti nella nostra Italia. Anche la conformazione del cittadino italiano è totalmente diversa anche da 40-50 anni fa. Quindi occorre costruire un'Europa. La scuola non può non essere uno strumento fondamentale per costruire questa Europa. Ecco, mi vengono in mente anche tutte le esperienze di scambio che ci sono, penso soprattutto a livello di istruzione superiore, già ci sono, quindi anche dal basso si stanno costruendo relazioni. Sì, i viaggi di istruzione, quelli che noi chiamiamo, che sono esperienze di base, ma che si stanno sempre più allargando a scambi, ecco, tra studenti, a viaggi, ma anche a esperienze, anche a soggiorni e anche a vari molteplici progetti europei, Erasmus e quant'altro, ecco che contribuiscono a una maggiore fruibilità di sistemi scolastici, di ambienti diversi, di incontri, di scambi. E il giovane oggi è invitato, e la scuola non può non tener conto anche di questo. Questo è un'esperienza importante. Noi come italiani purtroppo siamo ancora fatichiamo a entrare in questa ottica. I nostri studenti francesi, tedeschi e inglesi, ecco, sono molto più preparati ad affrontare anche ambienti e scuole e sistemi, ecco, diversi. Un'altra parola importante è la sussidiarietà. Una parola che noi tante volte abbiamo anche riflettuto da questi microfoni e che nel nostro Veneto e Triveneto è molto presente, in particolare con le scuole paritarie, con le scuole dell'infanzia, con i centri di formazione professionale, e cioè questa presenza di del territorio e dei protagonisti che di fronte a una necessità non aspettano dall'alto risposte, ma con le loro capacità e competenza danno risposte immediate, e una risposta immediata è appunto la formazione, una risposta immediata ai centri di formazione professionale, che, come abbiamo detto, anche primo abbatte la mortalità scolastica, secondo inserisce nel mondo del lavoro quanto prima gli studenti, ed è un sistema di eccellenza. Vorremmo che questo si estendesse anche a tutto il territorio italiano, quando e dove vediamo invece regioni totalmente assenti di questo settore. che rischia poi anche di penalizzare le nostre regioni, Lombardia e Triveneto, perché appunto sembrerebbe che questo fosse una questione puramente locale o regionale, quando invece è una questione, ecco, di carattere nazionale. Ecco, vorremmo che anche questo aspetto, ecco, da questo incontro emergesse non come una questione, ma come una eccellenza, un'opportunità che possa e debba anche essere esportata anche in tutto il territorio nazionale. Ecco, credo che in questo senso al Papa già sono state presentate delle fotografie sulla situazione, oltre che l'idea che magari si è già fatto lui in un anno e poco più di presenza in Italia. Europa, sussidiarietà, comunità, certo, dicevi prima, ci sono le piccole comunità, i paesi attorno ai quali ruotano soprattutto le scuole per l'infanzia, se non addirittura le scuole elementari o le scuole medie, ma è comunità in senso più largo, appunto, la società, no? La società. Allora, i dati europei stanno sempre più suggerendo e indicando che siamo entrati in una cosiddetta società della conoscenza, ecco, società della conoscenza. Bene, una società che è una comunità della conoscenza, e la scuola non può non essere uno strumento che veicola queste nuove conoscenze, che introduce nella società gli studenti, che siano adeguatamente preparati, adeguatamente equipaggiati con le conoscenze, con le competenze e con le abilità, ecco, in maniera tale che diventi sempre di più una società comunità educante, una comunità educativa capace anche di trovare, di utilizzare gli strumenti che ha in mano, la tecnologia, la multimedialità e quant'altro. E quindi questo scoprendo anche che la scuola, se per certi aspetti poteva in questi ultimi anni essere percepita come una realtà a sé stante dalla società, dovrebbe essere sempre di più, ecco, percepita come una realtà di cui la comunità locale si prende cuore ed è espressione della comunità locale. Ecco la parola autonomia. Autonomia che non vuol dire separazione, segregazione, ma che vuol dire valorizzare e sostenere lo specifico di una comunità umana che vive un territorio in un dato tempo. E quindi la scuola, anche per il passaggio delle conoscenze e per il passaggio dell'educazione e per quello che è la tradizione, il tradere, il trasmettere, il comunicare, ecco, i valori, ecco, deve svolgere un ruolo fondamentale. Questo a livello di paese, poi a livello di nazione ancora di più. Ultima pausa, tra poco ancora insieme. Dal mondo della scuola. Y'all niggas and smack y'all up. Y'all can see stars who play corners and shit. Check it out. You can catch me on top now, playing the club, throwing a shot down, trying to stay above ground. Another round, breaking day in the club, surrounded by my own thoughts, playing the cut, reminiscing on days I ain't have a pot to piss in. No watches to glisten, no V's with high systems, missing my homies that pass right in front of my eyes. Due to the fast life, we told wonderful lies on how we would live forever. Time proved us wrong, had to get our shit together and move it along. Had dreams of being big niggas, jig niggas, driving the hottest cars, moving out with our moms and all. Interrupted by this chicken that I used to cluck with back in the days when I was moving much shit. What up, chick? Maintaining, it's the same old thing. Little stress, little bullshit, ain't too much change. I see you kept it moving, you see I kept improving. She nodded her head in agreement. Remember when I used to walk up and down a cement, putting it down through the streets, is why I just stayed hooded down just to earn a rep. But what good is it now? She said, damn, I just stopped to say hi, bye. I was too deep for you from day one. That's why we never had relations, continued in my own zone. To follow where you are. in the back park until it got dark. Wanted to be like the older male, sneak and drink older champagne. Dangerous games we played on the third rail. Fiend for the summer breeze, I'm about to lead dungarees to the Hawaiian shorts, relying on sports to take us away from here. But I cut too much, so I had a plan B. Used to rhyme with a brush in the mirror. My siblings used to back me up, like Dougie Fresh and Ricky D, Eric, Mickey and me. All my niggas, is you with me? Each of y'all, best reach for the stars, man. Wishing on a star. Ultima parte di questa puntata dedicata ancora una volta all'incontro di sabato 10 maggio, ormai mancano pochi giorni. Nel pomeriggio, Don Edmondo, il programma prevede l'inizio dell'incontro a che ora? Da quello che noi conosciamo e sappiamo è la gente può entrare in piazza San Pietro verso l'una e mezzo e poi c'è la sistemazione, il Papa dovrebbe arrivare alle 16:15. Dovrebbe appunto girare per la piazza, farsi vedere e poi la bella celebrazione dovrebbe iniziare alle 5 fino alle 18:30. È in diretta Rai, quindi è possibile anche chi non ha la possibilità di essere presente di partecipare. E come ufficio abbiamo organizzato anche dei momenti, dei luoghi, ecco, li pubblicheremo a giorni, ecco, dove è possibile con dei maxi schermi poter partecipare in diretta, ecco, in gruppo, certo. E in gruppo nel luogo, ecco, fino alle 18:30. E come si svolgerà questo incontro, a parte l'intervento del Papa che è molto atteso? Ancora è, diciamo, top secret, nel segreto che sarà semplice, ecco, non ci saranno grandi, però ecco, spero, mi auguro che possa toccare, ecco, i nuclei fondamentali della scuola. L'importante appunto è essere lì, sentirsi insieme e anche farsi vedere, perché se c'è poi la diretta televisiva, sì, questo poi sarà ripreso anche dai telegiornali. Farete concorrenza forse alla dunata degli alpini che è a Pordenone? Per noi ci siamo detti ancora in passato, ci siamo organizzati un po' per tempo per occupare amichevolmente i pullman, appunto, perché sapevamo che contemporaneamente c'era la donata degli alpini e quindi molti potevano essere occupati e andare appunto a Pordenone. Siamo a metà del guado, nel senso che abbiamo 4 anni e qualcosa già alle spalle, ne abbiamo altri 5 e qualcosa davanti nel decennio della CEI dedicato all'educazione. C'è questo appuntamento appunto tra pochi giorni ed esattamente tra un anno c'è un altro grande evento. Appunto, il grande evento è di tutta la Chiesa a Firenze, convegno nazionale che si svolge ogni 10 anni, l'ultimo è stato nel 2006 a Verona, dove appunto è stato lanciato il tema dell'educazione e che poi i nostri vescovi nel decennio l'hanno maturato in questo decennio. Il prossimo è a Firenze e sarà centrato sul nuovo umanesimo. E allora l'incontro che avremo con il Papa il 10 maggio non può non essere una tappa verso questo convegno. Anzi, la Conferenza Episcopale, quando ha indetto questo incontro, l'ha inserito appunto dentro questo percorso finalizzato al convegno. E quindi la scuola, tra le sue finalità, è quella della formazione integrale dell'uomo. E per la Chiesa l'uomo integrale è Gesù Cristo, il crocifisso risorto, e quindi sotto questo aspetto qui operare in maniera critica e creare quelle condizioni affinché questa progettualità possa essere motivata, presentata, accolta, offerta come contributo perché l'uomo di oggi, il giovane di oggi, possa essere felice, possa trovare il senso della propria esistenza. E quindi il convegno di Firenze, nuovo umanesimo, dovrebbe trovare anche il mondo della scuola e tutti quelli che si impegnano nella scuola e nell'educazione, dei protagonisti affinché la scuola concorra alla creazione e alla formazione del nuovo umanesimo. Quello sarà convegno ecclesiale, quindi di tutta la Chiesa italiana, di tutte le diocesi e di tutte le comunità. Come si fa poi a contemperare il grande evento, il grande appuntamento, questo vale per la scuola, vale per le GMG, vale per le canonizzazioni, poi con la vita ordinaria, perché è chiaro che ci vuole l'entusiasmo del grande appuntamento in cui sei in tanti, e poi però ci sono le fatiche, le piccole grandi croci quotidiane da affrontare, da parroci, da laici, da giovani, da studenti. Ecco, sotto questo aspetto qui la scuola ci insegna, la scuola vive non della straordinaria età, come può accadere il 10 di maggio, ma la scuola vive della sua ferialità. Purtroppo ogni tanto lo straordinario e per certi aspetti negativo va a fare la prima pagina quando ci sono degli scandali, ma la scuola vive giorno dopo giorno la ferialità. E quindi su questo aspetto qui io spero, mi auguro che questa iniezione di speranza, di fiducia, possa essere diffusa, diluita capillarmente in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, dando fiducia e speranza ai protagonisti in maniera tale che ogni giorno, al suonare della campanella alle ore 8 possono essere protagonisti, testimoni gioiosi, credibili della speranza e incontrare un'umanità, che può essere anche faticosa, può essere fragile, può essere per certi aspetti anche incompleta, ma una umanità verso la quale come Chiesa noi abbiamo la responsabilità di prenderci cura. Quindi il come sarà secondo la fantasia, la creatività e la competenza di tutti questi protagonisti che vivono la scuola, oltre che con la competenza professionale, anche con una passione evangelica. Ed è quello che noi cerchiamo di sostenere col nostro piccolo spazio settimanale. Allora, buon viaggio verso Roma, magari ci risentiremo in diretta in qualche occasione o anche nei giorni successivi per un commento. Grazie Don Edmondo. Grazie a tutti voi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.